È nata da un incontro con la sua protagonista, che io ho incontrato per caso. La sua storia mi ha colpito il modo in cui, da figlia di emigranti, poi è diventata emigrante lei stessa, poi è tornata in Italia. Insomma, mi ha colpito in quanti modi ha incontrato l'esperienza della migrazione. Quindi le ho chiesto di raccontarmi la sua storia, me l'ha raccontata, io poi nel tradurla in romanzo l'ho romanzata, ho cambiato nomi, ma la sostanza è un incontro con una persona di cui mi ha colpito la storia e anche la personalità. La protagonista del libro si chiama Lina e il tema del libro è un tema che in realtà è molto attuale, ma spesso anche quando si parla di migrazioni si approccia il tema da un punto di vista, diciamo così, statistico e non dalle storie personali. Forse questo invece è una cosa importante, no? da affrontare. Per me è molto molto importante partire dalle persone, dall'esperienza delle persone, dall'umanità delle persone, che è ciò che ci consente di riconoscerci, è ciò che consente l'empatia. Oggi tragicamente siamo un paese che è assalito da chi addirittura teorizza che non bisogna avere empatia, da chi crea una separazione fra noi e loro come se i loro non fossero esseri umani come noi. E quindi raccontare le storie delle persone è molto molto importante, così come è importante raccontare la storia di una persona italiana che ha vissuto l'emigrazione italiana, troppo dimenticata, non solo troppo dimenticata perché oggi siamo terra di immigrazione, ma troppo dimenticata perché gli italiani hanno ricominciato a emigrare negli stessi paesi che io racconto del libro, per esempio la Germania, e è un'altra cosa di cui non si parla per niente. Quindi attraverso la vita di Lina si fa anche un po' la storia di questo paese? Sì, anche se io ho voluto tenerlo sullo sfondo, nel senso che proprio perché ero interessata all'esperienza umana, ero interessata per esempio a un prezzo terribile che pagano le donne che emigrano, sia le donne di allora che le donne migranti di oggi, che è la separazione dei figli. Succede a tante badanti filippine o moldave e succedeva alle donne italiane come la mamma di Lina, di essere separati dai figli, di potersi magari ricongiungere solo dopo un po' di anni, e a un prezzo a quel punto umano molto alto, al prezzo di conflitti. Quindi mi interessava molto la dimensione umana, personale, anche gli amori, le amicizie, la storia, la ricerca di libertà personale. Però tutto questo avviene dentro una trasformazione molto grossa del nostro paese, e anche questo per me era un tema appassionante. Non c'è bisogno di dedicarci ogni singola pagina, come contesto è un contesto importante, uno sguardo sulla storia del nostro paese. Tu affronti un tema, un macro tema, che è una sorta di conflitto personale psicologico tra il bisogno di radici e l'impossibilità di appartenere completamente a un solo luogo. Io credo che questo sia certamente un dramma e contemporaneamente una ricchezza che vivono tutte le persone migranti, che hanno radici in luoghi lontani e che vivono in luoghi, magari in diversi luoghi lontani da quello in cui sono nate, e quindi vivono il bisogno di mantenere le proprie radici, il desiderio di appartenere al luogo in cui vivono, però l'impossibilità di appartenerci totalmente. Io credo però che questo non è solo un conflitto dei migranti, che questo appartiene a tutti noi, soprattutto a tutti noi italiani. A me viene da ridere quando si dice bisogna difendere l'identità italiana prima gli italiani, perché noi italiani siamo questo impasto di tante identità diverse. Il nord Italia è diverso dal sud, dal mezzogiorno, ciascuno ha nella storia della propria famiglia emigranti, immigrati, origini arabe, origini austriache, nella mia famiglia anche ci sono origini croate, praghesi, siciliane, tutte mescolate. Quindi l'impossibilità di identificarsi con una sola tradizione, un solo luogo, una sola tribù, diciamo così, è un tema umano di tutti noi. Possiamo prenderlo come una condanna e andare a cercare delle identità sempre più piccole, sempre più strette, sempre più aggressive e rabbiose, fino alla fine si dirà prima quelli del mio piano del condominio, perché già con gli altri condomini litigo. Oppure si può rovesciare lo sguardo e dire ma questa è una ricchezza, il fatto che noi dentro di noi portiamo dentro tante radici diverse ci può consentire di incontrare con un altro sguardo chi arriva in Italia e porta altre radici, con un altro sguardo gli italiani e le italiane che sono partiti e tornate, e vedere la meraviglia della ricchezza della storia umana, e quindi vederlo come un'occasione per costruire un'Italia più ricca, più libera, più variata, più intelligente, più curiosa, più capace di affrontare le sfide del mondo globale senza paura, liberandosi dalla paura e invece come un'opportunità.